Dall'accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg, capitolo 28, l'introduzione dell'economia mercantile. La seconda premessa fondamentale, sia per l'appropriazione di mezzi di produzione che per la realizzazione del plusvalore, è l'inserimento delle comunità a economia naturale, una volta distrutte, nel traffico commerciale e nell'economia mercantile. Tutti gli strati e le società non capitalistici devono, per il capitalismo, divenire acquirenti di merci e vendergli i loro prodotti. Sembrerebbe che, almeno qui, la pace, l'uguaglianza si profilino, il do ut des, la reciprocità degli interessi, la concorrenza pacifica, le influenze civili. Se il capitale riesce a strappare con la forza alle comunità sociali primitive i loro mezzi di produzione, e a costringerle con la violenza a diventare oggetti dello sfruttamento capitalistico, non può invece obbligarle a realizzare il suo plusvalore, costringendole ad acquistare le sue merci, supposizione che sembra confermata dal fatto che la diffusione dell'economia mercantile in territori ad economia naturale pone come inevitabile presupposto l'introduzione di mezzi di trasporto, ferrovie, navi, canali. In realtà, l'offensiva dell'economia mercantile comincia per lo più con le grandi opere di civiltà dei moderni sistemi di comunicazione. Linee ferroviarie che tagliano foreste vergini e traforano montagne, fili telegrafici che superano d'un balzo i deserti, transatlantici che approdano in porti disseminati in tutto il mondo. Ma il carattere pacifico di queste trasformazioni è pura apparenza. I rapporti commerciali delle compagnie delle Indie orientali con i paesi delle spezie erano rapina, sfruttamento, frode perpetrati sotto la bandiera del commercio, allo stesso titolo dei rapporti fra i capitalisti americani d'oggi e gli indiani del Canada ai quali comprano pellicce, o fra i mercanti tedeschi e i neri dell'Africa. Classico esempio del commercio mite e pacifico, tra virgolette, con società arretrate, è la storia moderna della Cina, percorsa come da un filo rosso dalle guerre condotte dagli europei per aprire il celeste impero agli scambi. Persecuzioni di cristiani provocate da missionari, tumulti scatenati da europei, periodici e sanguinosi scontri bellici in cui doveva misurarsi l'assoluta incapacità di un pacifico popolo di contadini di resistere alla più moderna tecnica di guerra delle grandi potenze capitalistiche europee unite, pesanti contributi imposti ai vinti e l'intero sistema del debito pubblico, dei prestiti europei, del controllo europeo sulle finanze statali e dell'occupazione europea delle piazze forti, della forzata apertura dei porti e delle concessioni per la costruzione di ferrovie carpite da capitalisti europei. Queste le levatrici del commercio in Cina dopo il 1840 fino allo scoppio della rivoluzione cinese. Il periodo dell'apertura della Cina alla civiltà europea, cioè allo scambio delle merci col capitalismo europeo, è inaugurato dalla guerra dell'oppio, in cui la Cina è costretta ad accettare il prezioso, tra virgolette, dono delle piantagioni indiane e a trasformarlo in oro per i capitalisti inglesi. Gli effetti devastatori del veleno, soprattutto delle qualità più a buon mercato a disposizione della popolazione povera, assunsero ben presto l'aspetto di una calamità pubblica e provocarono, come arma di difesa da parte cinese, un divieto di importazione dell'oppio. Già nel 1928 il viceré di Canton aveva proibito l'importazione di oppio, ma il suo decreto aveva avuto il solo effetto di spostarne il commercio verso altre città di mare. Un'autorità pechinese incaricata di studiare la questione espresse il seguente parere: ho potuto constatare che i fumatori di oppio hanno un così violento desiderio di questo medicamento nocivo da rinunciare a tutto pur di procurarsene il piacere. Se non l'hanno all'ora solita, le loro membra cominciano a tremare. Grosse gocce di sudore scendono loro dalla fronte e sul viso. Non sono più in grado di svolgere la minima attività. Ma portate loro una pipa da oppio, fate che l'aspirino e sono belle guariti. Così l'oppio è diventato per chi lo fuma un bisogno assoluto. E non c'è da stupirsi se, quando le autorità locali gli chiedono di rivelare il nome di chi gli ha fornito quel prezioso bene, preferisce sopportare qualunque pena pur di non rispondere. Inoltre, le autorità ricevono doni perché chiudano un occhio e sospendano le indagini. La grande maggioranza dei mercanti che introducono merci a Canton vendono anche oppio come articolo di contrabbando. Sono del parere che l'oppio sia un male assai peggiore del gioco e che non si dovrebbe applicare ai fumatori d'oppio pena minore che ai giocatori. Il censore proponeva che ogni fumatore colto sul fatto fosse condannato a 80 colpi di canna di bambù, uno che si rifiutasse di fare il nome del fornitore 100 colpi e 3 anni di esilio. Il censore pechinese chiude il suo rapporto con una franchezza inaudita per le autorità europee. Sembra che l'oppio sia introdotto da fuori per l'intermediario di funzionari indegni che, d'accordo con mercanti assetati di denaro, lo trasportano nell'interno del paese, dove giovani di buona famiglia, ricchi privati e mercanti se ne beano finché il vizio si estende anche all'uomo comune. Mi risulta che in tutte le province si possono trovare fumatori di oppio non soltanto tra i funzionari civili, ma anche nell'esercito. Mentre i funzionari dei diversi distretti ribadiscono continuamente coi loro editti la proibizione ufficiale della vendita dell'oppio, i loro genitori, parenti, subalterni e servi fumano come prima e i mercanti sfruttano il divieto per far salire i prezzi. La stessa polizia compra questo articolo invece di contribuire alla sua eliminazione ed è questo anche il motivo per cui tutti i divieti e le disposizioni rimangono inosservati. Nel 1833 fu emanata una nuova e più energica legge che comminava la pena di 100 sferzate e l'esposizione alla berlina per 2 mesi a chiunque fosse stato scoperto a fumare oppio. I governatori delle province furono impegnati a segnalare nei loro rapporti annui i risultati della lotta contro il flagello. La lotta ebbe questo effetto. L'Inghilterra dichiarò guerra alla Cina per costringerla a proclamare libera l'importazione dell'oppio. Cominciò così la gloriosa, tra virgolette, impresa dell'apertura della Cina alla civiltà europea sotto forma di pipe da oppio. Il primo obiettivo della guerra fu Canton. Le fortificazioni della città all'imbocco del fiume delle Perle erano, come facile immaginare, primitive. Si trattava essenzialmente di uno sbarramento di catene di ferro tese al tramonto, a distanze diverse, fra zattere di legno ancorate. Le navi inglesi ebbero in pochissimo tempo ragione di questa rudimentale fortificazione. L'azione per terra chiese qualche ora di più, ma data l'assoluta inefficienza dei cannoni avversari, gli inglesi penetrarono tra le fortificazioni, raggiunsero un punto strategico lasciato indifeso e dall'alto bombardarono i cinesi inermi. Bilancio della battaglia, da parte cinese 600 morti, da parte inglese un morto e 30 feriti. Bastarono pochi minuti per sloggiare dal forte i cinesi e operare senza resistenze lo sbarco. La scena inumana che ne seguì, come scrive un rapporto inglese, rimarrà per gli ufficiali britannici oggetto di eterno e profondo rammarico. Infatti, nel tentativo di fuggire dalle trincee, i cinesi erano precipitati nelle fosse, che si riempirono di soldati inermi e imploranti pietà. Su questa massa di corpi umani distesi si fu fatto fuoco e Canton fu aperta al commercio. L'apertura della Cina al commercio, iniziatasi con la guerra dell'oppio, fu suggellata dalla serie degli appalti e dalla spedizione cinese del 1900, in cui gli interessi commerciali del capitale europeo si tradussero in un aperto furto internazionale di terre. Il contrasto fra l'originaria teoria e gli sviluppi pratici della civilizzazione europea in Cina traluce chiaramente dal dispaccio inviato dall'imperatrice vedova dopo la conquista dei forti di Taku alla regina Vittoria. Ogni guerra è tuttavia punteggiata da saccheggi e rapine in grande stile dei portatori di civiltà. Nei palazzi imperiali, negli edifici pubblici, nei monumenti dell'antica civiltà cinese, tanto nel 1860, quando il palazzo imperiale fu saccheggiato dei suoi favolosi tesori dai francesi, quanto nel 1900, anno in cui tutte le nazioni gareggiarono nel furto di proprietà pubbliche e private. Rovine fumanti di grandissime e antichissime città, decadimento dell'agricoltura su grandi estensioni di terreno, pressione fiscale asfissiante per la riscossione dei tributi di guerra, furono le manifestazioni parallele dell'offensiva europea e dei progressi del commercio internazionale in Cina. Ognuno dei più che 40 treaty ports cinesi è stato pagato con fiumi di sangue, stragi e rovine. Capitolo 29. La lotta contro l'economia contadina. Un importante capitolo conclusivo della lotta contro l'economia naturale è la separazione dell'agricoltura dall'artigianato, l'espulsione dei mestieri contadini dall'economia rurale. L'artigianato nasce storicamente come attività contadina sussidiaria, come appendice della coltivazione del suolo. La storia dell'artigianato europeo nel Medioevo è la storia della sua emancipazione dall'economia contadina, del suo distacco dal feudo, della sua specializzazione ed evoluzione nel senso della produzione mercantile cittadina corporativa. Ma, pur evolvendo fino alla manifattura e di qui alla grande industria capitalistica, nelle campagne la produzione artigiana rimase tenacemente legata all'economia contadina. Come produzione domestica sussidiaria nel tempo lasciato libero dal lavoro dei campi, l'artigianato ebbe importanza fondamentale per l'approvvigionamento dell'azienda agricola. Ma lo sviluppo della produzione capitalistica strappò all'economia contadina un settore artigiano dopo l'altro per concentrarli nella produzione di massa delle fabbriche. Tipico esempio è la storia dell'industria tessile, ma lo stesso fenomeno si ripete, seppure in forma meno appariscente, per tutti i mestieri contadini. Per fare della massa rurale l'acquirente delle sue merci, il capitale tende anzitutto a ridurre l'economia contadina all'unico ramo di cui non può immediatamente impadronirsi, l'agricoltura. Qui tutto sembra apparentemente svolgersi in modo pacifico. Il processo si compie inosservato sotto la pressione di puri fattori economici. La superiorità tecnica della produzione di massa, con la sua specializzazione, con la sua analisi e combinazione scientifica del processo di produzione, con le sue fonti di rifornimento mondiali di materie prime e i suoi attrezzi perfezionati, è, nei confronti del primitivo mestiere contadino, indiscutibile. In realtà, in questo processo di separazione dell'economia contadina dal mestiere, agiscono fattori come la pressione fiscale, la guerra, la vendita e monopolizzazione delle terre demaniali, che rientrano a un tempo nell'economia nazionale, nel campo della violenza politica e in quello del codice penale. In nessun paese come negli Stati Uniti questo processo è stato portato più spregiudicatamente a termine. Furono ferrovie, cioè capitale europeo, prevalentemente inglese, a trasportare il farmer americano passo passo sulle sterminate pianure del West, dove annientò gli indiani con le armi da fuoco, i mastini, l'alcol e la sifilide, e li trapiantò con la forza da Oriente a Occidente per appropriarsene come, tra virgolette, terra libera, il suolo, dissodarlo e metterlo a coltura. Il farmer. Il contadino americano del buon tempo antico, il backwoodsman di prima della guerra di secessione, era ben altro tipo dall'attuale. Sapeva far di tutto e nella sua piccola azienda sperduta se la cavava perfettamente, quasi senza il mondo esterno. L'attuale farmer americano è tutt'altro uomo che il suo avo di 50 o 100 anni fa. Molti ricordano ancora il tempo in cui i farmers si occupavano in gran parte di attività artigiana, cioè fabbricavano essi stessi in buona parte ciò di cui avevano immediato bisogno. Ognuno aveva la sua collezione di attrezzi con cui fabbricava mobili in legno e utensili, come la forca e il rastrello, il manico della vanga o dell'aratro e così via. Inoltre il farmer produceva lino e canapa, lana di pecora e cotone. Queste materie tessili erano lavorate nell'azienda medesima, erano filate e tessute in casa, e sempre in casa si facevano abiti, biancheria e simili per il consumo degli stessi contadini. In ogni farm c'era un piccolo laboratorio da falegname e da fabbro. In ogni casa una cardatrice e un telaio. Si tessevano tappeti, coperte e altre stoffe da letto. Dovunque si tenevano oche con le cui piume si riempivano cuscini e imbottite e materassi. L'eccedenza la si vendeva sul mercato della città più vicina. D'inverno grandi carri a 6-8 cavalli portavano al mercato il grano, la farina, il mais, magari a distanza di 100 o 200 miglia, e vi si compravano determinate merci per l'anno successivo. Non erano rari gli artigiani veri e propri. Nello spazio di 1 o 2 anni, nella farm, si costruiva una carrozza. Il materiale lo si trovava nelle vicinanze, la qualità di legno da usare era, nel contratto col vicino, esattamente stabilita, bisognava fornirla entro un certo tempo e per un certo tempo lasciarla asciugare, in modo che, quando la carrozza era finita, entrambe le parti sapevano la provenienza di ogni pezzo di legno e quanto tempo era rimasto ad asciugare. D'inverno il carpentiere preparava finestre, persiane, porte, cornici, travature per la stagione successiva. Al tempo dei geli autunnali, il calzolaio si sedeva in un angolo dell'abitazione del farmer e preparava le scarpe per tutta la famiglia. Tutto ciò era fatto in casa e una gran parte delle spese era coperta dai prodotti della terra. Quando arrivava l'inverno, era tempo di provvedersi di carne che veniva affumicata e messa in magazzino. L'orto dava frutta per il vino, il mosto, le conserve, quanto bastava per le esigenze della famiglia e per tutta la durata dell'anno, se non più. Il grano veniva trebbiato a poco e a seconda del bisogno, appena l'occorrente per ricavarne del contante. Tutto era conservato e consumato. Una delle conseguenze di questo sistema economico era che poco denaro occorreva per l'esercizio dell'azienda, della farm. In media bastavano alle maggiori farms, cioè fattorie, $100 per il mantenimento della servitù, la riparazione degli attrezzi, eccetera. La guerra di secessione doveva mettere bruscamente fine a questo idillio. L'enorme debito pubblico da essa provocato, 6 miliardi di dollari, portò con sé un forte aumento dell'onere fiscale. Con la fine della guerra ebbe inizio lo sviluppo febbrile del sistema di comunicazione e delle industrie, specie meccanica, al coperto di sempre più alti dazi protettivi. Per incoraggiare la costruzione di ferrovie e la colonizzazione della terra, le società ferroviarie ricevettero gratuitamente enormi lotti di terre pubbliche. Nel solo 1867 più di 74 milioni di ettari. Parallelamente, l'Unione andava sempre più emancipandosi dall'industria europea, specialmente dall'inglese, e creava manifatture proprie, tessili, siderurgiche, meccaniche, ma soprattutto rapido fu il rivoluzionamento nell'agricoltura. Già nei primi anni dopo la guerra civile, i piantatori degli stati del sud furono costretti dall'emancipazione degli schiavi a introdurre l'aratro a vapore, mentre le fattorie da poco sorte nel West, in stretto collegamento con la costruzione delle ferrovie, venivano attrezzate sulla base della tecnica meccanica più moderna. Nello stesso tempo, si legge nel rapporto della Commissione Agricola degli Stati Uniti del 1867, in cui l'impiego delle macchine rivoluziona la cultura dei campi nel West e riduce al livello più basso fin qui raggiunto il lavoro umano, eminenti capacità organizzative e amministrative si dedicano all'agricoltura. Fattorie di molte migliaia di ettari vengono condotte con più talento, con un'utilizzazione più razionale ed economica dei mezzi a disposizione e con un rendimento più alto che fattorie di 40 ettari. Ogni produttore nazionale che si presentava davanti all'Assemblea legislativa per chiedere uno speciale dazio a protezione della sua azienda era certo di trovare immediata e benevola soddisfazione. Le tariffe doganali venivano elevate a piacere dei richiedenti. I legislatori persero spesso di vista la linea di demarcazione fra dovere civico e interesse privato. Grandi ricchezze furono accumulate mediante modifiche legislative richieste e attuate dalle stesse persone che ne erano le beneficiarie, e il paese constatò con rammarico che l'onore e la rispettabilità dei suoi uomini politici non ne uscivano intatti. Con questa svolta nella politica finanziaria degli Stati Uniti ebbe inizio una spudorata corruzione parlamentare, caratterizzata dall'impiego sfacciato dei voti, del potere legislativo e della stampa come strumenti degli interessi del grande capitale. L'enrichissez-vous, arricchitevi, divenne, a partire dalla nobile guerra per la liberazione dell'umanità dall'infamia della schiavitù, la parola d'ordine della vita politica. Gli Yankees, liberatori dei neri, celebrarono orge come cavalieri erranti della speculazione in borsa, regalarono a se stessi come legislatori larghe fette di terreno nazionale, si arricchirono coi dazi e con le imposte, coi monopoli e con le truffe, insomma, con la dilapidazione del patrimonio pubblico. L'industria fiorì, erano passati i tempi in cui il piccolo e medio farmer fattore riuscivano a tirare avanti quasi senza soldi e solo ogni tanto, a seconda delle necessità, trebbiavano le loro riserve di grano per ricavarne quattrini. Ora il farmer aveva bisogno di denaro, di molto denaro, per pagare le tasse. Doveva vendere in fretta tutto ciò che produceva per comprare come merce dai manifatturieri tutto ciò che gli era necessario. Il farmer vende il bestiame e compra carne fresca o salata, vende i maiali e compra prosciutto e carne di porco, vende ortaggi e frutta e li ricompra in forma di conserve. Se coltiva lino, lo batte invece di filarlo, di tesserlo, di farne biancheria per i suoi figli, come avveniva 50 anni fa. Vende il seme e brucia la paglia. Su 50 farmers è tanto se uno alleva pecore. In genere si fa affidamento sui grandi allevamenti e si acquista la lana già lavorata in forma di tela o di vestito. I suoi abiti il farmer non li fa più cucire in casa, ma li compra in città. Invece di fabbricarsi gli attrezzi agricoli necessari, va a comprarli al mercato. Compra corde e canapi, stoffe e abiti, frutta conservata e lardo, carne e prosciutto. Compra oggi quasi tutto ciò che ieri produceva e ha perciò bisogno di un mucchio di denaro. Soprattutto strano è questo: mentre prima la casa dell'americano era libera e senza debiti, e non in un caso su mille la si ipotecava per ottenere un prestito in denaro, mentre occorrendo poco denaro per la conduzione del fondo, fra i contadini il denaro non mancava mai, ora che ne occorre 10 volte tanto, ce n'è poco o nulla. Circa la metà delle fattorie hanno contratto debiti ipotecari che ne divorano l'intero reddito e gli interessi sono esorbitanti. Causa di questa stupefacente metamorfosi sono i manifatturieri con le loro fabbriche di filati e tessuti di lana e lino, di lavorazione del legno, di filatura e tessitura del cotone, di preparazione di frutta e carne conservate, eccetera. I piccoli laboratori artigiani delle fattorie hanno ceduto il passo alle grandi fabbriche cittadine. Il vicino atelier del carrozziere ha fatto posto all'enorme stabilimento industriale in cui si producono 100 o magari 200 carri la settimana. In luogo della miriade di piccoli artigiani calzolai, c'è oggi la grande fabbrica cittadina, in cui la maggior parte del lavoro è eseguita dalle macchine. Infine, anche il lavoro strettamente agricolo del farmer si meccanizzava. Oggi il farmer ara, semina e miete a macchina. La macchina taglia e lega i covoni e si trebbia a vapore. Mentre ara, il farmer può leggere il giornale del mattino e miete seduto al riparo sulla macchina. Questa trasformazione dell'agricoltura americana a partire dalla Grande Guerra non fu però la fine, ma l'inizio del ciclone in cui il farmer doveva essere travolto. La sua storia ci porta naturalmente alla seconda fase di sviluppo dell'accumulazione capitalistica, che nello stesso tempo illustra con molta efficacia. Il capitalismo combatte e incalza ovunque l'economia naturale, la produzione per il bisogno dello stesso produttore, la combinazione dell'agricoltura e dell'artigianato per sostituirvi la semplice economia mercantile. Ha bisogno dell'economia mercantile come sbocco del suo plusvalore. La produzione delle merci è la forma generale in cui il capitalismo prospera. Ma appena impostasi sulle rovine dell'economia naturale la produzione semplice delle merci, ecco il capitalismo muoverle guerra. Il capitalismo entra con l'economia mercantile semplice in un rapporto di concorrenza. Dopo averle dato vita, le contende i mezzi di produzione, le forze lavoro, gli sbocchi. Suo scopo era prima l'isolamento del produttore, il suo distacco dai vincoli protettori della comunità primitiva, e poi la separazione dell'agricoltura dall'artigianato, e infine la sottrazione dei mezzi di produzione al piccolo produttore di merci. Abbiamo visto come la Grande Guerra aprisse negli Stati Uniti un'era di spudorato saccheggio dei terreni nazionali ad opera di monopoli capitalistici e di speculatori privati. Accanto alla febbrile attività di costruzione delle ferrovie e ancor più alla speculazione relativa, si sviluppò una folle speculazione sui terreni, in cui giganteschi patrimoni, interi ducati, divennero preda di singoli cavalieri di ventura e di grandi compagnie. Di qui, attraverso un nugolo di agenti, con tutti i mezzi di una pubblicità chiassosa e senza scrupoli, mediante imbrogli e inganni d'ogni genere, fu orchestrato il poderoso flusso dell'immigrazione dall'Europa. A tutta prima l'ondata venne a frangersi sulla costa atlantica, ma quanto più l'industria si sviluppava negli stati orientali, tanto più l'agricoltura si spostava verso l'ouest. Il centro granario, che nel 1850 si trovava a Columbus, nell'Ohio, emigrò nel cinquantennio successivo verso nord e verso ovest. Nel 1825 il Congresso aveva deciso, sotto Monroe, di trapiantare gli indiani dall'east all'ouest. I pelirossa resistettero disperatamente, ma almeno gli ultimi resti sopravvissuti ai massacri delle 40 guerre indiane furono spazzati via come inutile ciarpame, cacciati verso occidente come orde di bufali, chiusi come bestie feroci nelle gabbie delle riserve. L'indiano doveva cedere il passo al farmer. Poi fu la volta del farmer a cedere il passo al capitale, ad essere cacciato a sua volta, di là del Mississippi. Al seguito delle ferrovie, il farmer americano puntò verso l'ouest e il nord-ovest, verso la terra promessa che gli agenti dei grandi speculatori sui terreni gli avevano fatto balenare. Ma le estensioni di terra più fertili e meglio esposte furono impiegate dalla società per una grande conduzione puramente capitalistica. Accanto alla piccola fattoria sperduta nelle foreste o nel deserto, sorse una pericolosa concorrente e nemica mortale, la Bonanza Farm, la fattoria miniera, l'unità agricola capitalistica finora sconosciuta al vecchio come al nuovo mondo. Qui la produzione del plusvalore fu perseguita con tutti i mezzi ausiliari della scienza e della tecnica moderna. Per esempio, dal 1874, Olivier Dalrymple può essere considerato come il più tipico rappresentante dell'agricoltura a base finanziaria. Egli dirige contemporaneamente una linea di navigazione sul fiume Rosso e sei fattorie appartenenti a una società di finanzieri, dalla superficie complessiva di 30.000 ettari. Le ha divise in sezioni di 800 ettari l'una, ognuna delle quali ha spezzettato in tre sottosezioni, sottoposte a capi e a sottocapi sezione. In ognuna sono costruite baracche che ospitano 50 uomini e altrettanti cavalli e muli e contengono cucine, magazzini di alimentari per uomini e bestiame, rimesse per macchine, laboratori da fabbro e carpentiere. Ogni sezione ha il suo inventario completo, 20 paia di cavalli, 8 aratri doppi, 12 seminatrici, 12 erpici a denti di acciaio, 12 macchine falciatrici e covonatrici, 2 trebbiatrici e 16 carri. Tutto è previsto perché macchine e animali da lavoro, uomini, cavalli e muli, siano in buono stato e in grado di compiere la quantità massima possibile di lavoro. Tutte le sezioni sono collegate telefonicamente fra loro e con la direzione centrale. Le sei fattorie di 30.000 ettari sono dotate di un esercito di 600 uomini organizzati militarmente. Al tempo del raccolto, la direzione arruola altri 500-600 lavoratori sussidiari da distribuire fra le sezioni. Se in autunno i lavori sono finiti, i lavoratori vengono dimessi, ad eccezione dei capi sezione e di 10 uomini per sezione. In molte fattorie del Dakota e del Minnesota, i cavalli non svernano sul luogo di lavoro. Finite di arare le stoppie, li si spinge in mandrie di 100-200 paia, molti chilometri a sud, da dove ritornano solo in primavera. Meccanici a cavallo seguono le macchine per arare, seminare e mietere. Appena qualcosa non va, galoppano fino alla macchina guasta per ripararla subito e rimetterla in moto. Il raccolto è portato alle trebbiatrici che lavorano ininterrottamente giorno e notte, alimentate da fasci di paglia spinti attraverso tubi di ferro nelle caldaie. Il grano viene trebbiato, spulato, pesato e insaccato a macchina, portato alla ferrovia che corre lungo la farm e di qui parte per altre città. Ogni anno il signor Dalrymple aumenta di 2.000 ettari i suoi seminativi. Nel 1880 questi raggiungevano complessivamente i 10.000 ettari. Con simili imprese capitalistiche il fattore non poteva concorrere. Nello stesso tempo in cui il rivoluzionamento dei rapporti generali, finanze, produzione, sistemi di trasporto, lo costringeva ad abbandonare la produzione per il suo fabbisogno, e a produrre tutto per il mercato, i prezzi dei prodotti agricoli precipitavano in seguito all'enorme estensione della coltura del suolo. Nello stesso tempo in cui la massa dei farmer vedeva incatenati i suoi destini al mercato, il mercato agricolo dell'Unione si trasformava di colpo da sbocco locale a mercato mondiale, aperto al gioco folle di pochi capitali giganteschi e alle loro speculazioni. Nel 1879, anno decisivo nella storia dell'agricoltura, tanto europea che nordamericana, si iniziò l'esportazione in massa del grano statunitense in Europa. Naturalmente i vantaggi di questo allargamento del mercato di sbocco furono monopolizzati dal grande capitale. Da una parte crebbero, soffocando con la loro concorrenza le aziende piccole, le fattorie gigante. Dall'altra il piccolo farmer cadde in preda agli speculatori che compravano il suo grano per esercitare con esso una pressione poderosa sul mercato mondiale. Abbandonato inerme alla potenza del capitale, il farmer si caricò di debiti, forma tipica del declino dell'economia contadina. L'indebitamento delle farms divenne presto una calamità pubblica. Il peso delle ipoteche sulle fattorie, sulle case e sui terreni va prendendo dimensioni preoccupanti e se in singoli casi il debito è stato acceso con eccessiva precipitazione, nell'enorme maggioranza è stato indubbiamente imposto dalla necessità. I prestiti ad alto interesse sono divenuti soffocanti in seguito alla caduta del prezzo dei prodotti agricoli e minacciano il farmer in molti casi della perdita della casa e del fondo. Questione gravissima per chi vorrebbe curare i mali di cui i farmers soffrono. Risulta infatti che ai prezzi correnti il contadino, per ottenere un dollaro con cui pagare il suo debito, deve vendere assai più prodotti di quando aveva preso in prestito quello stesso dollaro. Gli Gli interessi crescono, mentre l'ammortamento del debito è evidentemente divenuto una questione insolubile. Ma di fronte alla situazione penosa di cui parliamo, il rinnovamento dell'ipoteca risulta estremamente difficile. I farmers affondano nei debiti ipotecari senza essere in grado, in molti casi, di rinnovare il prestito, essendo l'ipoteca sempre più deprezzata. Molti abbandonano la loro azienda, che la macina dell'indebitamento continua a divorare. Ci troviamo nelle mani di una potenza spietata. La farm va a picco. Al contadino indebitato e rovinato non rimane che trovare scampo in servizi ausiliari come salariato o abbandonare la sua azienda e togliersi dai calzari la polvere della terra promessa, del paradiso del grano, ammesso che nel frattempo la sua fattoria non fosse, per insolvenza, caduta nelle grinfie del creditore, come fu il caso per migliaia di farmers. Verso il 1850 le fattorie abbandonate in rovina si contavano in numero enorme. La banca, il commerciante di macchine, il bottegaio gli si lanciano addosso e lo spogliano dei frutti del suo duro lavoro. Il disgraziato rimane sulla terra come affittuario o si sposta verso Occidente per cercare fortuna altrove. In nessuna regione dell'America del Nord ho mai visto tanti contadini indebitati, delusi e amareggiati come nei distretti granari delle praterie del Nord-Ovest. Non un solo farmer con cui abbia parlato nel Dakota che non fosse pronto a lasciare la sua piccola azienda. In questo stato di abbandono si possono trovare grandi estensioni di terra incolta, ma perfettamente coltivabile, che si possono comprare a prezzi non lontani da quelli degli stati del West, per giunta in prossimità di scuole e chiese e con la comodità della ferrovia. Migliaia di acri a grano e mais rimanevano improduttivi e si trasformavano in deserto. Per ripopolare la terra incolta, gli speculatori menavano una furiosa pubblicità e attiravano nuove schiere di immigranti, nuove vittime destinate a precipitare nel baratro ancor più rapidamente che i loro predecessori. Nei pressi delle ferrovie e dei mercati di sbocco, si legge in una lettera privata, terre pubbliche non ce ne sono più, sono tutte in mano di speculatori. Il colono prende del terreno libero e paga come farmer. Ma la sua fattoria è tanto se gli assicura l'esistenza, né egli può concorrere con le grandi aziende contadine. Coltiva il pezzo di terra assegnatogli per legge, ma per mantenere il suo livello di vita deve trovare un impiego sussidiario fuori dalla farm. Nell'Oregon, per esempio, ho incontrato un colono che per 5 anni ebbe in proprietà 160 acri, ma d'estate, a fine giugno, lavorava alla costruzione di strade 12 ore al giorno per un salario di un dollaro.